hai sentito? Come va? Antonello, e allora no, Super Radio. Il 430 io ce l'ho 10 anni e non gli ho mai fatto una riparazione seria, cazzattine. Il display, qualche falso contatto, cazzattine. Il problema dei cable del vecchio è solo il 440. I muletti sono sia 80, 140 e 430, infatti io ce li ho tutti e tre. 440 non voglio sentire neanche più parlare. Ciao Claudio. Mandato dal mio tecnico, ma ha fatto nuovo di vecchio. Mi ha messo anche la maniglietta, tutto ordinato, è perfetto, funzionante al 100%, è nuovo. E non esce di qua. Se devi comprare una radio Kenwood di vecchia, dico vecchia generazione, ma di grande, sottolineo grande prestazione, trovati un TS950, possibilmente l'SDX, è valutato intorno a quella cifra sui 1500 euro, 1400, 1500, 1300, dipende, capito? Ricordati, TS950 SDX, versione da 200 watt, è una bestia, un caterpillar, una bestia, c'ha una modulazione in AM e in banda laterale come questa, e applichi l'MC60, è una bestia, una radio eccezionale, io l'ho avuta e ti posso garantire che è eccezionale, ancora molto in voga, molto cercata, e chi ce l'ha ce la tiene, però può capitare che la trovi, capito? TS950 della Kenwood SDX, non prende l'SD, capito? O l'SX, SDX, che c'ha il c'ha tutto il sistema digitale della modulazione, è favoloso, veramente una grandissima bella radio. Ok, poi non lo so, come tu sei sfigato. Se vuoi ti dica, io sia di Iaesio che Kenwood non ho mai avuto problemi, mai. L'unico problema che ho sempre avuto, ma questo lo sapevo da quando l'ho comprata, perché mi era stato detto, il 440. Però mi è sempre piaciuto, quindi lo riparavo e lo tenevo. Alla fine poi mi sono stufato e non ne voglio più. Mi sono tenuto il 430, lo Iaesio e il 140. Se trovo anche un C80, perché no? Mi compro anche un C80, così ce li ho tutte e tre i muletti e non escono da qua. Ok, dai, io rimango in ascolto per il momento. Mi ascolto volentieri, ma sto facendo alcune cose in stanza e non posso mollare. Ok, sto sfogliando i termosifoni e devo attivare la caldaia, e quindi che c'è freddo, e quindi devo finire di spurgare i termosifoni. Ci sentiamo dopo, vai Antone. Via, il cielo fa pratica, se tu non sfogliare, perché stavamo già piazzati i termosifoni senz'altro. Sì, sono piazzati, sono nuovi, hai detto bene. Sto togliendo la pellicola trasparente, perché altrimenti poi quando scalda si attacca e non riesco a toglierla, capito? Sto togliendo la pellicola trasparente proprio ai termosifoni e poi li spurgo con apri la valvolina per vedere se l'acqua in pressione e tutto, perché c'è il tecnico in sta colavando la caldaia, quella che fu, capito, della Medea. Ok, dai, ci sentiamo dopo, ok? A dopo, Cla. Avanti l'altro Claudio. Muros. Thank you. chiudo. Se non ti piace lo smitter digitale a LED, che poi è un semi digitale a LED, vai su 940, non sbagli, TS940, SAT, e c'ha lo smitter analogico, la potenza chiaramente non hanno fatto la versione da 200 watt, però una radio che dà 100 watt in tutte le bande, quindi non hai problemi. Ok, vi lascio a dopo, vai Antonio, scusa se ti ho preso il microfono. No, niente, non c'è problema. Soldi ci vogliono, soldi. E questa radio qua. Cazzo, se faccio i conti tutto quello che ho speso, ci va la macchina, cazzo. A pensarci bene. Ui, ui. E mette per mettere la papà poi mamma, cazzo. Figlio mio, mi stai rovinando con questo baracchino, mi stai rovinando. Stai disturbando tutte le televisioni, tutti ce l'hanno con me. Quando mi trovano giù, e quando ne viene il sito è anche qui, mi stanno massacrando. E tu se c'ho questa passione non ci posso fare, mica mi riesco in moto e a prendermi un poco di freddo. Va bene, già va bene, poi adesso vabbè, siamo in pochi, quindi la questione non... Prima c'era un sacco di gente, ci divertivi di più, adesso c'è poca gente purtroppo. Ti devi arrangiare. perché a spedirlo indietro eccetera eccetera ti costa un sacco di lira. E quindi sono aspettato, ho chiesto a un amico, ho detto abbi pazienza, mi ha detto un po', già te lo procuro, mi ha detto. Ora qui, ora a Oristano, ora vado a Cagliari, capito? Sì, concordo con quello che ti dicevo, ma è stata una chiusa alle cose, perché c'è poco da guidare, che però lo so che ho fatto per quel vizio, ho fatto le tasse, ho comprato male, ho fatto un sacco di soldi, e con comprare quella radio mi sono venduto tutte le moto, che ci sono, e da tutto con qualche di non fare, capito? Adesso cammino, se fa più un'altra, capito, hai quelle condizioni, capito, perché non era male come radio, però era giustizia, era tutto per l'altra, e poi c'erano cose da fare, che erano messi, che dovevano fare, però è andata, non so se con la portata di scelta di un'altra, era sempre ferma, se non la stavo usando, la sono usata a fare qualche dieci mercato, per poi la ma niente di più, capito, e sono radio quelle che portano soldi, non è che la compri tutti come la radio. Io quindi a comprarne una, perché di più questo, capito, perché sono radio che portano, anche il conto, tutto quello della IAE, che lo sono più di una, quelle radio che portano una marca di soldi, più riccone, se le possono permettere solo, perché non è solo avere la licenza da radioamatore per quelle radio, ma sono ombri tutti che necessitano di un conto che per le cose, capito, è proprio un fatto di soldi di acero, capito, se lo può permettere di investire in queste cose, capito? Adesso devo vedere un po' come risolvere la cosa, capito? Perché se ci portavamo un disco di 30 minuti, 140, 75, 140, quello me lo compra, ma a comprarmi una radio tipo quella che mi si è curata, cioè non mi fa sparire che queste che ci occupo. Beh, c'ha ragione, si è speso 1500 euro, uno stipendio proprio di... Era male tra l'esercizio, e quindi sei fortunato, ma c'è gente invece che non ti esercisce niente, capito? Il problema è quello. Quello infatti non ho avuto come disco da ci sentiamo perché viene spesso a casa, molte volte mi sta parlando, è una persona per bene, non sento a capitolare, non sento che sono ha risolto tutto lui perfettamente, se vuole importare, quindi prenderò qualcosa di meglio di quella che sono calcinata, che però la moglie potrebbe fare di più se capito sono stati perdoni, dato che queste cosette qua, capito, in pratica bisogna, capito, vedere, valutare un po' più l'anno, quindi internet, guardo, però non è solo a prenderle a scatola chiusa, le cose, capito, prima le voglio vedere funzionando, credo di una garanzia di una persona che deve essere fatto il suo. Forse, capito, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare su di lui, capando se c'è qualcuno che vuole entrare. Niente, prego. Via, già sono qua. Già andrà bene. Ne ho visto un po' di apparecchi, ce n'è uno già da una settimana, prima ci aveva messo il cavo 350 euro, gli ho telefonato e mi ha detto no, l'ho già promesso eccetera eccetera, adesso ci ha messo l'altro, e già da due settimane lì, evidentemente ha problemi quel coso, quel cavo, capito? E quindi ha già stato bel lì, è ancora lì su Facebook, l'ho visto, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va con l'apparecchio dentro. Poi dalla Campania vai fino a tutto, potrebbe essere un cantone. Purtroppo viviamo in un mondo di abilità in danno, soprattutto così quello degli uffici. Volevo dire, capito, adesso devo valutare un po' questa cosa, capito, perché questo non c'è cos'è, ma l'aveva fatto per un film che l'ha guardato, era vendendo l'apparecchio 280, era un 140. Lo chiamo e detto, guarda, c'era un altro rilanciato, ha detto, guarda, ti do 300 euro in contanti, ho detto, immediatamente, ho detto, me lo spedisci a me. E adesso devo vedere un po', devo vedere quanto è contatto, poi mi telefona e mi fa, ne voglio 350 o 400, ascolta, fa una cosa, ho detto, staccati il culo, il santo, ho detto, se non capisce, staccatelo dietro il culo, ho detto. Quello ha detto l'apparecchio, dove si fa il totto, gli ho detto, quindi non puoi chiedermi una cosa del genere, 400 euro, 240, allora. ne ho venduto due, gli ho detto io, ma stai scherzando, gli ho detto, tieni, te lo conto, ho detto, mettiti in freezer, gli ho detto, va che mezzo. Yeah. quelli che ho. Questi tre canali proprio non mi piacciono, sai quante me ne sono capitati, la KB23, basta che se salga Orsi me lo prendo, è mio, c'è un FM500S anche addirittura. Poi ce n'è roba, è che devi fare il giro delle case, capito? Devi ricordarti dei vecchi CB e chiedere se te lo regala, capito? Tutto lì. Comunque ce ne sono di apparecchi a Sassari. Basta cercare un po' di vecchi CB che non durano più e glielo chiedi. Il discorso è quello lì. Così sì. Aspetta che abbasso il volume. C'è gente che sta parlando dal centro vaccinale di Sassari. Arriva che forte arriva. Adesso attacco il carro lì, la macchina venga a prendermi di tutti. davvero mio già. E andiamo a fare qualche giro qualche giorno da tutti quei cibi che sono spariti, andiamo di casa in casa con il carrello, niente ti è rimasto, dicemi c'ho questa qui, portatelo via, non basta andare come faceva cosa il mio collega che lavorava insieme a me da Osai, ha lavorato lì al comune, anche Mario addirittura aveva lavorato lì al comune, lo sai che i baracchini li buttavano nei cassoletti, ma 5-6 alla volta, poi a un certo punto non ho più fatto più toccare niente a nessuno lì al monte. Lì già le buttavano di roba, antenne, apparecchi di tutti i tipi. Sai che stiamo chattando con uno di Terni, e a Terni, la zona di Terni, hanno ripristinato tutti i baracchini e cose, ce ne sono un bel CB, ne sono entrati un centinaio, e hanno fatto anche un'associazione nuova e stanno andando avanti, dice che ne stanno entrando sempre di nuovi. Meno male, vabbè, lo stanno io. Perché su Civitac è diventato un troiaio, è diventato in 44 parlano, non sai quanto, ogni tanto quando accendo ne vedo poche gente, cazzo, col divieto allucinato, si bisticciano, specialmente lui nella zona lì a Sicilia, Calabria, sembrano i padroni, si mettono a cantare, per carità. Sì, una volta ho detto posso entrare in questo canile scherzando, si sono incazzati, quando imparerà a parlare bene, brutto maleducato, me l'ha detto poche di cose. Sì, a voglia, sono un giorno stavo ascoltando, in pratica si stavano azzuffando in due, facevo la CB Talk a Zello, capito, c'erano due ragazze, una era di Olmedo e l'altra di Cagliari, e ce l'avevano con questi due, sì, calabresi ce l'avevano, e le cose che ci hanno detto, alla fine è intervenuto il guarda della Midland e li ha tutti e quattro bandati lì. Ci sarà un moderatore sicuramente anche lì. E vabbè, ma a me non mi biasi, ci ho provato, è tutta una cosa fredda, non mi biasi, io quando modulo mi piace avere l'apparato, il segnale, tutto quanto, è una cosa diversa, no? Perché io mi compro gli apparati e ti dico lei, ma quello riesce bene, ma se non mi piace l'apparato non lo compro, perché mi piace vederli proprio, mi devono piacere. Beh, certo che ti devo piacere, sì, ma la vedi, gli unici apparecchi che mi sono sempre piaciuti è il Saturn Echo, come quello che c'hai tu, che io l'ho avuto lo stesso, e poi da poco ho visto il Petru. tutto in vendita, è bello lo stesso. 200 euro ho visto. È uguale a Saturno, però c'ha il frontale tutto metallizzato. E poi, cosa ti posso dire? C'è qua il Major, tanto per dire, altre 3 o 4 paracchine che ci sono. Vabbè, a parte il 140 e il 680, va. E l'altro giorno c'era l'F7B, c'era, mi voleva 300 euro, mi voleva. Se poco a poco vai a toccarlo quello, lo dice, voleva appena appena le dice sistemato, ha arrivato e una volta che tocchi le schede, perché lì c'è il filamento in oro, c'è, capito? Se sbagli poco a poco togli la scheda, poi c'è il fine, non funziona più. Ma perché questo qua non ti piace? Questo qui è il Cobra di X, non ti piace, 200 di X. Non lo conosco, non mi sto più, non sto più controllando, intanto ne esce uno nuovo di apparato, ce ne sono anche addirittura di quelli cinesi che ho visto belli, che fanno 0,030, figurati, ce ne escono con 100 watt d'uscita, ma una volta che lo compri poi hai riparato come fa, è tutto micro SD, no, non esiste. Mi abbassa la fregatura, ho preso di quello omologato che ho pagato col Covid 86 euro, ne quotava 68, io non mi torna più a fregare, no. E questo non ti piace, non è un 48 come facevo io il PV2500S omologato, anzi no, il coso era che avevo fatto, che avevo messo l'omologazione, l'FT250 con l'omologazione dietro, ero venuto Pilas, mi ha detto è questo, e questo l'ho comprato così dietro, cioè è omologato, c'è scritto dietro. E io non lo ricordo con le ricette. Intanto me l'ha fatto accendere, dice accendi, me lo fai vedere se funziona, certo, te lo faccio vedere, io l'ho acceso, ma dove va? E in tutte, certo va, e lo uso, certo che lo uso, vado anche in 45 metri, gli ho detto, ah va bene, allora mi ha messo la multa, 80.000 lire era, apparato, non ho mandato in concessione, però me l'ha lasciato a casa, la verità. Bei tempi. Sì, ma è quella una gran bella radio, quella c'ha Gianni. Penso sia l'unico che ce l'ha Sassari, perché quella che c'ha Gio Maria non è come quella. Quella è forse a Sassari, forse anche più di Sassari. Costava una barca di soldi quella radio, una barca di soldi, pare 700-800 euro costava. E poi la versione 150 watt, 200 watt, sembra una laterale in 10 metri, è una scheggia quella radio, l'ho provata, la direttiva l'avevo provata, cazzo minchia, bubu bomba. Va bene, ho detto ce ne sono andati adesso, ci avevo, stavano collevando la caldaia. Adesso mi pare che mi attacco il gas, che adesso è un po' di tempo che non lo uso. Avanti, che l'ho arrugginito, buonasera. Sono liscio, non è che sto attaccando niente, sono solo con la parola. Gianni mi ha detto che stavo usando il Galaxy, allora ho commutato, adesso anch'io sto andando col Galaxy, 8 watt, Tanner più 3B, cambio. Grazie. Io sono la collina qua a me. Fossi stato bene il sito, stai tranquillo che ti avrei fatto mangiare lo Smith, ti avrei fatto comprare tutto nuovo come minimo. Da lì già uscivo forte, era una bella zona quella, a Ossi lo crepavo. Figurati. Siamo proprio di fronte, Ossi, Muro, Setissi, Ossi, Tempio, tutta quella zona la beccavo in pieno. Uscivo veramente bene, poi c'è da Sardegna, non se ne parla. E poi l'unica cosa di bello è che ogni giorno parlavo con la Spagna, mattina, sera e notte, sia d'inverno che d'estate. Arriva molto bene, anche a me, le isole Minorca, Maiorca. Se si è aperto lì, se c'è il canalone, guarda, se come si dice, quello Monte Santo, da lì si sente tutto, sì, poi tu dove abitavi prima eri molto molto più in alto e lì l'unico, guarda, che facevi schiattare un po' di gente, però dove sei si è aperto lo stesso, mi vuoi ti credi? Più in alto, sono arrivato a 250 metri, ma stai scherzando, io ho accompagnato Franco in macchina dentro Alghero, fino a quando è arrivata la mora, via Don Mezzoni, Franco di Sosso non lo sentiva, la scenere che c'è una zona altissima, molto alta, ma bufandici, è bella questa zona, altissima, è chiaro che per Sassari ho perso con un po' di segnale, ma a me non è che mi la futti assai di perdere il segnale dentro Sassari, ma ho guadagnato, ho ripreso le zone che avevo prima, mi arriva Olbia, figurati, cosa che prima non mi arrivava, Ozieri, Oscri, Udusio, cazzo, più non certo mi arriva Santiago 9, mi arrivava Santiago 4 a Carbonazzi, cosa, Monserrato da Patata mi arriva 9 lo stesso, capito, Alghero mi arriva 9, Mirko mi arriva più di 9, no, va bene, non mi posso lamentare, vai Gianni, io fammi sentire questo Galaxy, che voglio vedere se va bene come questo. Attaccare! Siamo Malotti! Avete parlato in quattro, dimmi già! C'è qualcuno che mi chiama sul fondo, un attimino, avanti, chi chiama? Capo, scusate un attimo, vi trasferisco un attimino sul video. Eia, ciao Giulio! Ciao Natale, spero di non saper modulare nessuno. Ciao Claudio e ciao Claudio, i due Claudio. Allora ti ho convinto che hai guadagnato Claudio, non hai perso, hai guadagnato in altezza. Sono allucinante veramente, ciao Giulio. Ah, ieri me ne sono accorto con Franco in macchina. Cioè l'ho accompagnato sino a dentro Alghero, anche da là è Alghero favore, però qua è micidiale. Qua quando Franco è fermo non lo sente nessuno, solo io lo sento. Proprio è bellissimo. Poi ho fatto altre prove, l'altra volta con Monserrato di Patata, con Pinocchietto, lo stesso in macchina, sino all'ingresso di Budusò, con Coso, quelli di Ozieri, vabbè io non entro nel canale loro, però li ho sentiti l'altra volta che là sul canale 40, Luigi mi pare si chiami, boh, Giovanni non lo sentivo prima, adesso sento anche Giovanni, Santiago 3, e Luigi da Santiago 5 è passato a Santiago 8, quindi cioè, non mi posso lamentare, poi perdere qualche segnale, qualche punto S dentro Sassari è normale, sei più distante, però non mi posso lamentare, assolutamente. Avanti Claudio per i saluti a Giulio. Entra. Thank you. Gregorio. Sì, sì, sì, non so se tu ti ricordi qualche mese fa, eri in frequenza e stavi parlando tu con uno di Ossieri, se ricordo bene, non vorrei smentirmi, si chiamava Luigi questa persona che era Ossieri e tu mi avevi fatto la ponte, lui a me mi sentiva, ma io a lui non lo sentivo assolutamente, non so se tu ti ricordi questo particolare, Claudio. Non si ha fortuna. Va bene, va bene.